Mezzogiorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Si apre il Giubileo della Misericordia a Roma, che porti a tutti bontà e tenerezza, dice il Papa. Non si trascuri lo spirito del buon samaritano. A Roma intense misure di sicurezza, con oltre 2.000 uomini schierati, chiuse alcune stazioni della metropolitana, maxi sequestro della finanza, 500.000 di gadget contraffatti dell'anno santo. Nuova strage di profughi, tutti bambini, in 6 hanno perso la vita in un naufragio al largo della Turchia, tra loro un neonato. Il caos nel PD siciliano e non solo. Francantonio Genovese, appena finiti carcere domiciliari, passa a Forza Italia portandosi dietro i suoi parlamentari, consiglieri comunali e un numero imprecisato di sindaci. L'ultima di Donald Trump, fermare l'ingresso negli Stati Uniti di chiunque sia di religione musulmana. Lo attaccano anche gli altri repubblicani. È contro tutto quello in cui crediamo. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, regolarmente in onda nonostante la giornata di festa. Una buona giornata a tutti, dunque in particolare a chi lavora come noi. Iniziamo parlando ovviamente di questa giornata importante, l'apertura del Giubileo. Lo affronteremo nel corso di questa puntata ampiamente e da vari punti di vista, compreso quello evidentemente della sicurezza e della gente che era in piazza oggi, e poi ci torneremo in giornata perché dedicheremo uno speciale a tutto questo dalle 17 alle 18.30. Iniziamo dalla cronaca di questa mattina e ci colleghiamo con la nostra inviata a Roma, Katia Caramelli. Katia, buongiorno. Buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Allora, iniziamo a parlare di come è andata questa mattinata. Un grosso applauso è quello che ha salutato l'apertura della Porta Santa di San Pietro. Prima di spalancarla e poi naturalmente varcarla, il Papa ha recitato una formula di rito che sentiamo. È questa la porta del Signore. Apritemi le porte della giustizia. Poi Francesco ha varcato la Porta Santa e dopo di lui lo ha fatto il Papa Emerito Benedetto XVI, che infatti era presente alla celebrazione come in tutte le grandi occasioni, quindi al fianco di Francesco, tra loro un forte abbraccio. Poi è stata la volta dei concelebranti, delle delegazioni, tutti hanno varcato la Porta Santa. Quindi oggi ufficialmente è cominciato l'anno santo dopo l'avvio simbolico in Africa a Bangui, un anno santo che poi terminerà il 20 novembre e che sarà ricco di tantissimi appuntamenti nel corso dei mesi. Ne ricordiamo solo un paio: la giornata mondiale della gioventù in estate a Cracovia e poi in settembre con ogni probabilità la canonizzazione di Madre Teresa di Calcutta. E il Papa ha tenuto naturalmente durante la messa l'omelia, ha invitato i fedeli a non avere paura perché ha detto: Dio è innanzitutto misericordia. Sentiamo un passaggio. Questo anno straordinario è anche esso un dono di grazia. Entrare per quella porta significa scoprire la profondità della misericordia del Padre che tutti accoglie e ad ognuno va incontro personalmente. Sarà un anno in cui crescere nella convinzione della misericordia. Anno santo che, lo ricordiamo, si apre nel giorno della festa dell'Immacolata. Infatti nel pomeriggio il tradizionale omaggio del Papa alla statua in Piazza di Spagna, ma che coincide anche con un'altra importante ricorrenza, ossia la fine dei lavori del Vaticano II. E infatti Francesco durante l'omelia ha ricordato il significato del concilio e ha invitato proprio la Chiesa a riscoprire il volto missionario, secondo appunto i dettagli del concilio, e ad andare incontro all'uomo. Sentiamo. Dove c'è una persona, là la Chiesa è chiamata a raggiungerla per portare la gioia del Vangelo e portare la misericordia e il perdono di Dio. una spinta missionaria, dunque, che dopo questi decenni riprendiamo con la stessa forza e lo stesso entusiasmo. Il Giubileo ci provoca a questa apertura. Ricordiamo anche, Simone, che non sarà necessario recarsi a Roma per varcare la Porta Santa. Infatti oggi si è aperta quella di San Pietro, ma tra qualche giorno, il 13, si apriranno porte sante un po' in tutto il mondo. Questa è una delle grandi particolarità di questo Giubileo straordinario. Allora Katia, io intanto ti saluto e ci fermiamo qua. Ci ritroveremo alle 13.35 per tornare a fare un punto e per sentire altri racconti e altre voci, non solamente quella del Papa, pur in questa giornata. E anche un ricordo interessante che hai raccolto nei giorni scorsi di Joachim Navarro Valls proprio sul Giubileo del 2000. Intanto andiamo a fare un punto sulla piazza e sulle strade che hanno affollato pur sotto la pioggia che c'è stata questa mattina, questa apertura della anno santo straordinario. Nazareno Orlandi sta girando da questa mattina tra i pellegrini, tra i fedeli. Nazareno, eccoci, buongiorno. Sì, Simone, buongiorno. Allora ti dico che invece in questo momento splende il sole in piazza San Pietro, soprattutto la voglia di essere qui, di assistere a un momento storico, di stringersi a Papa Francesco senza arrendersi all'allerta del terrorismo. Una piazza, va detto, non pienissima di persone, ne abbiamo viste meno del solito, anche meno di altri grandi eventi che si sono celebrati in Vaticano negli ultimi anni, ma certamente una piazza piena di entusiasmo e di devozione. I fedeli sono arrivati da ogni parte del mondo, tantissimi anche ovviamente gli italiani, e allora in questo primo blocco vi farei sentire proprio le voci che abbiamo raccolto da Piazza San Pietro. Abbiamo attraversato un cammino per riuscire a venire qua, abbiamo lottato anche contro l'Etna che ci ha bloccato e nonostante questo siamo qua per il piacere di poter passare questa giornata santa. Evento grandioso, peraltro non anticipato casualmente, contributo all'Italia così come è accaduto per l'impatto dell'Expo. Forti emozioni. È una giornata speciale, essere qui a Roma, davvero, al canto del Misericordio mi ha provocato una forte emozione. Avevo voglia di partecipare contro ogni paura. Il momento più bello, più toccante, quando l'apertura della porta, che sulla piazza è apparso, il Papa ha parlato di misericordia, in quell'attimo si è aperto un velo stupendo di sole. Secondo me è un segno anche dal cielo, ecco, quindi una cosa bella. Sono stato diverse volte a Roma, siccome i miei figli non c'erano mai stati. Quindi... Sentiamo il piccolo, la prima volta a Roma quindi. Sì, sì, e abbiamo visto l'Angelus l'altro ieri e ora siamo qui in fila per l'attesa della Porta Santa. No, noi siamo un campo scout e finiamo questo campo con... venendo qua a San Pietro. Viva Papa Francesco quindi. Sì, sempre. Così il nostro Nazareno Orlandi, che torneremo a sentire anche lui nel corso della puntata con altre voci e su altri aspetti di questa giornata. Veniamo al quadro della sicurezza e dello schieramento delle forze dell'ordine. Andrea Viali, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, è stata una cerimonia blindata, lo abbiamo detto più volte anche nel corso degli ultimi giorni. In questo momento io ti sto parlando a qualche centinaio di metri di distanza dai colleghi che abbiamo appena sentito, sono in via della Conciliazione, diciamo più verso Castel Sant'Angelo, alla fine di via della Conciliazione, e sono all'esterno dei varchi dai quali gli ultimi pellegrini stanno lasciando appunto Piazza San Pietro. Il deflusso si sta svolgendo senza particolari problemi e lo stesso possiamo dire anche per quanto riguarda i severi controlli che ci sono stati in entrata. I varchi sono stati aperti alle 6.30, i pellegrini sono stati sottoposti ad un doppio controllo. Qui dove mi trovo io in questo momento c'è stato quello dei permessi che servivano per assistere a questo evento e c'è stata anche una prima perquisizione, poi sotto i portici della Basilica c'è stato invece il passaggio sotto i metal detector. Come detto, finora tutto si sta svolgendo come da programma, anche, lo dobbiamo dire, grazie all'opera delle centinaia di volontari della Protezione Civile che assieme ai molti uomini delle forze dell'ordine stanno vigilando sulla cerimonia di avvio di questo giubileo che, lo abbiamo ripetuto anche questo più volte nel corso degli ultimi giorni, sarà un anno santo blindato per tutta Roma per il timore di attacchi terroristici. Solo oggi, lo ricordiamo, sono 2000 gli uomini delle forze dell'ordine in servizio qui nella zona del Vaticano. Simone. E grazie Andrea Viali, anche con te torneremo a collegarci più avanti per parlare anche di questo paio di operazioni che ci sono state questa mattina, perché al di là della sicurezza vera e propria per il rischio terrorismo, c'è anche una sicurezza che riguarda i rischi di truffa che ci sono. Stamattina tre persone che si fingevano poliziotti e tentavano di truffare i pellegrini, e poi un maxi sequestro di gadget non autorizzati, 500.000 pezzi a quanto pare per un valore di 1 milione di euro. Torneremo più avanti sul giubileo, intanto andiamo alle altre notizie di giornata, iniziando dalla Sicilia, dove ieri il PD Francantonio Genovese, al centro della scena, lo ricorderete per la richiesta di arresto che fu recapitata al Parlamento e a favore della quale il suo stesso partito votò, passa con Forza Italia, portandosi dietro un po' di uomini e donne suoi, un numero imprecisato tra l'altro. La corrente dell'ex deputato PD Francantonio Genovese, indagato dalla Procura di Messina nell'ambito dell'inchiesta sui corsi d'oro nella formazione professionale in Sicilia, ha aderito a Forza Italia e la notizia, ufficiale da ieri sera, riceve la benedizione anche di Silvio Berlusconi, che qualche giorno fa aveva investito il neocommissario regionale Gianfranco Miccichè nell'arduo compito di ricostruire il partito azzurro in Sicilia. E Miccichè raccoglie la sfida e cala non solo la carta a sorpresa del candidato più votato d'Italia alle primarie dei Dem del 2012, ma un vero e proprio poker d'assi. Ad annunciare infatti il passaggio nelle file azzurre sono anche la deputata Gullo, il deputato regionale Rinaldi e 9 consiglieri comunali di Messina e della provincia, più un numero non ancora definito di sindaci. E, parola di Genovese, ulteriori adesioni sarebbero in arrivo. Annuncio che suona quasi come una rivincita contro quel partito, il PD, che per decisione di Renzi decise di votare a favore del suo arresto ancor prima che la richiesta dei magistrati arrivasse alla Camera. Genovese è tornato in libertà il 27 novembre scorso, dopo 19 mesi fra arresti domiciliari e restrizioni in carcere per truffa e frode fiscale. Letizia Carrara, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Messina. PD alle prese anche con le primarie milanesi, di questo ci parla Daniele Biacchessi nella sua consueta analisi del martedì. Quanti sono i nomi delle primarie del centro-sinistra per le comunali di Milano? Certamente numerosi. Il premier Matteo Renzi vede Giuseppe Sala, che poco dopo si dice disposto a candidarsi, purché le primarie, dice lui, non siano utilizzate strumentalmente per partite nazionali. Il sindaco di Milano Giuliano Pisapia viene chiamato da Matteo Renzi a Palazzo Chigi e durante la riunione rilancia la candidatura di Francesca Balzani, attuale vice sindaco, che in queste ore poi conferma la sua intenzione a scendere in campo. Però Sala e la Balzani non riescono a ricompattare la coalizione uscita vincitrice dalle amministrative del 2011. Sella di fondazioni, comitati per Giuliano Pisapia sindaco, il magmatico mondo dell'associazionismo milanese sembrano invece interessati ad altri percorsi. L'assessore alle politiche sociali Pierfrancesco Maiorino, tra i primi insieme a Emanuele Fiano ad annunciare la sua candidatura, intende proseguire la sua battaglia. Saranno 3 o forse di più i candidati del centro-sinistra. Intanto il direttore del giornale Alessandro Sallusti e la candidata del Movimento 5 Stelle Patrizia Bedori proseguono la corsa alla guida di Milano. Dalla politica italiana a quella americana, dove fanno discutere le parole di Donald Trump. Questa volta è troppo, troppo anche per i repubblicani più rigidi, se non altro per questione di opportunità. Le ultime esternazioni di Donald Trump hanno attirato le critiche della gran parte dei rivali candidati del Grand Old Party alla Casa Bianca. Una totale e completa chiusura all'ingresso dei musulmani negli Stati Uniti. Questa è la richiesta di Trump, che ha aggiunto: fino a quando non sapremo cosa sta succedendo, non abbiamo altra scelta. Laconico il commento della presidenza Obama. Le parole di Trump sono totalmente contrarie ai nostri valori come americani, ma anche contrarie alla nostra sicurezza. Più incisivi i compagni di partito. Si è spinto troppo in là per il governatore del New Jersey, Chris Christie, che pure ha posizioni intransigenti circa l'accoglienza di rifugiati siriani. Per Jeb Bush, Trump ha perso il lume della ragione, mentre la fiorina lo ritiene pericoloso. Pericoloso soprattutto per gli stessi repubblicani. Secondo un sondaggio tra gli elettori, il miliardario newyorkese ha danneggiato l'immagine e la reputazione dell'elefante. Lui però sembra non curarsene e anche sulle armi ha ribadito: se a Parigi la gente avesse avuto con sé pistole, non ci sarebbe stata quella carneficina. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Abbiamo parlato della politica milanese, ma a Milano, come di consueto, nel giorno di Sant'Ambrogio, una serata di Sant'Ambrogio, si è raccolta ieri un pezzo di Milano, naturalmente, alla Scala per la prima, il racconto della nostra Marta Cagnola. Una Scala controllatissima, ma un'atmosfera tutto sommato serena. Tanti gli uomini delle forze dell'ordine, discreti i controlli e alla fine gli 8 minuti di applausi hanno festeggiato la Giovanna d'Arco di Giuseppe Verdi, ma anche Milano, con la soddisfazione del sindaco Giuliano Pisapia. Io credo che il sindaco di Milano, e che è anche presidente della Scala, non può essere che orgoglioso di una grande città che dà bellezza, che risponde al terrore, al terrorismo, con la cultura, con un'opera straordinaria in una città straordinaria. Non ci faremo chiudere in casa, ha ribadito Matteo Renzi. La mia presenza è irrinunciabile, ha detto. Dopotutto gli ha fatto eco il ministro Dario Franceschini. La Scala è il teatro più importante del mondo. Questa è la prima più importante del mondo. Tutti gli occhi sono puntati su Milano e sull'Italia e peraltro dimostra che la centralità di Milano non è finita con l'Expo, anzi Milano sarà sicuramente la città europea di tendenza di tutti i prossimi anni. Forse la Giovanna d'Arco era davvero l'opera più adatta in questo momento, dicono due simboli della Scala, Carla Fracci e Roberto Bolle. È un momento di paura e questo fa molto male, pensando a quello che può essere per i nostri figlioli il futuro. È un personaggio straordinario, con la corazza combattuto, e nella vita bisogna anche avere la forza di difendersi. È importante che l'arte, la cultura, la bellezza siano parte della nostra vita in questo momento contro gli estremismi, contro i fondamentalismi. Quindi credo una prima ancora più importante testimonianza, la nostra presenza è fondamentale. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso ci fermiamo, c'è il traffico. Nella seconda parte della trasmissione apriremo andando in Turchia, dove, come vi abbiamo raccontato anche nei nostri titoli, c'è stata una nuova strage di profughi e tutti i bambini, sei le vittime, tra cui un neonato, e poi torneremo a parlare di Giubileo. A tra poco. Stufe, caldaie, termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Effetto Giorno. Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. In primo piano il Giubileo che si apre oggi, che porti a tutti bontà e tenerezza, dice il Papa. A Roma intense misure di sicurezza con oltre 2000 uomini schierati. Una nuova strage di profughi, tutti bambini, in sei hanno perso la vita in un naufragio al largo della Turchia, ne parliamo tra un attimo. Notizia di poco fa, altri 5 cittadini russi sarebbero stati decapitati da terroristi dell'ISIS, lo sostiene una non meglio precisata fonte delle strutture di forza del Caucaso del Nord, citata da un sito di news, da un sito di televisione di news che si chiama Life News. Il caos nel PD siciliano, Francantonio Genovese, appena finiti carcere domiciliari, passa a Forza Italia portandosi dietro i suoi. E poi l'ultima di Donald Trump, fermare l'ingresso agli Stati Uniti di chiunque sia di religione islamica, ce ne parlerà tra poco anche il nostro Mario Platero. Siamo al nuovo naufragio al largo della Turchia, il punto con Marco Barbonaglia da Istanbul. Buongiorno Marco. Buongiorno. buongiorno Simone. Sì, almeno 6 persone sono morte annegate questa notte quando verso le 2.30 un gommone naufragato al largo di Çeşme in provincia di Izmir, sulla costa Egea della Turchia. L'imbarcazione con un numero imprecisato di migranti a bordo stava cercando di raggiungere la Grecia. Secondo alcune notizie, che non hanno però una conferma ufficiale, i morti sarebbero 6 bambini, c'è chi parla perfino di un neonato tra loro. La guardia costiera nel frattempo è riuscita a salvare 8 persone mentre proseguono le ricerche di altri dispersi. Una notizia che arriva il giorno dopo il ritrovamento del corpo di una bimba siriana di 5 anni, Saida Ali, sempre sulle spiagge di Çeşme, immagine che ricorda molto da vicino quella della morte del piccolo Aylan Kurdi, ritrovato ad agosto sulla costa vicino a Bodrum, che scioccò il mondo. In questo flusso migratorio continuo, poi dalla Turchia proprio nel mezzo della rotta tra la Siria e l'Europa, gli unici progressi sono ora l'aumento del numero di migranti tratti in salvo dalla Guardia Costiera, cresciuto del 500% quest'anno, con un totale di 79.489 migranti contro i 14.961 dello scorso anno. Ma l'aumento delle persone salvate in sé non è soltanto una buona notizia, perché bisogna tenere conto che va di pari passo con la crescita continua del numero di incidenti, che quest'anno sono arrivati a 2.133 contro i 574 dello scorso anno. Da Istanbul è tutto, ti restituisco la linea. Grazie Marco Barbonagni, in diretta da Istanbul appunto per aggiornarci su questo nuovo naufragio. E torniamo in piazza, a Roma ovviamente, per il giubileo da Nazareno Orlandi, che come già vi dicevamo prima sta raccogliendo voci dei pellegrini e dei fedeli da questa mattina. Nazareno, eccoci di nuovo. Simone, ancora buongiorno da Piazza San Pietro. Questo è il giubileo di Papa Francesco, un Papa amatissimo. La gran parte dei pellegrini che abbiamo incontrato ci hanno raccontato proprio di essere qui per lui. Sentiamoli. È uno di noi. Papa Francesco è uno di noi. È una persona molto umile, che non è una figura che si presenta molto aristocratica, ma sembra del popolo. È del popolo. E l'attrazione più grande è il Papa. Grazie per avercelo mandato. È un Papa che non sa distinguere nazionalità. Un Papa molto umile che ci insegna proprio che il cristianesimo deve partire dalle cose più semplici della vita. Ecco, ci insegna davvero molto. Siamo di Marsala. Papa Francesco è una cosa meravigliosa, non esiste un Papa più grande di questo. È il Papa dei poveri, è la persona che ci voleva in questo periodo, è una persona tranquilla che dà molta serenità, dovrebbe dare serenità in tutto il mondo, e lui è l'unico che può fare. Papa che piace ai giovani soprattutto, penso che sia un Papa che può fare tanto successo. Ci voleva un Papa come questo per rimettere un pochettino in sesto i problemi della Chiesa e del mondo. Nonostante le difficoltà di giorni nostri, ha comunque andato avanti il giubileo senza interromperlo. È una persona umile, con l'umiltà si vince, vince il mondo lui, così solo, solo con la sua umiltà. E sul giubileo torneremo a parlare più avanti, torneremo anche a collegarci con Nazareno Orlandi, che ha raccolto anche qualche voce interessante sui controlli di sicurezza, e appunto torneremo anche a collegarci con Katia Caramelli e Andrea Viali, i nostri colleghi che stanno seguendo tutta questa lunga e importante giornata. Giovanni Pepi, condirettore del Giornale di Sicilia, bentornato ai nostri microfoni. Bentrovati, buongiorno. Bentrovato. Per parlare con te della vicenda politica del giorno, che sta facendo molto discutere, questo passaggio di Francantonio Genovese, il deputato del PD, lo ricorderete, che è stato condannato, per il quale il PD ha votato l'arresto per Genovese. C'era una richiesta d'arresto che pendeva su di lui, il PD votò a favore. Adesso che cosa ha fatto Genovese? Si è messo d'accordo con Micichè e ha deciso di passare armi e bagagli in Forza Italia, portandosi dietro, mi sembra di aver capito Giovanni, un numero che è ancora imprecisato di persone. Beh, è ancora imprecisato, però per quanto riguarda il Consiglio Comunale di Messina, se non l'intero gruppo consigliare, poco ci manca, ecco, siamo lì. E quindi non c'è dubbio che gli equilibri all'interno di quella istituzione sono notevolmente ribaltati. Non mi pare che sia la stessa cosa, si possa dire, per quanto riguarda la regione, dove Genovese ha un solo deputato sui 29 del PD, e poi bisogna valutare se questo passaggio dei consiglieri poi determinerà anche un corrispondente travaso di voti, il che non mi pare si possa già adesso prevedere. Senti Giovanni, come valuti questo passaggio e questo cambio di casacca, posto che da quel che abbiamo capito anche il PD sta facendo scouting, come si dice in gergo, in Sicilia? Beh, guarda, dal punto di vista politico, questo, siamo dinanzi a un fatto rilevante nel bene e nel male. Siamo a un fatto rilevante nel bene perché non dobbiamo dimenticare che attraverso questa rottura si consuma definitivamente un divorzio tra Genovese e il PD, che era appunto cominciato, come tu hai ricordato, quando il PD ha votato per la sua richiesta di arresto. Lui attualmente si trova, ha anche lasciato gli arresti domiciliari e c'ha obbligo di dimora a Messina, non può esercitare il mandato di parlamentare. Nel bene quindi il Partito Democratico è nelle condizioni a Messina di rifondare un rapporto diverso con il territorio su basi politiche nuove. Non dimentichiamo che Genovese simboleggia un PD che ha una visione, diciamo, dell'economia fortemente incentrata nella spesa pubblica, dove peraltro la gestione politica della spesa pubblica si intreccia talora o spesso con affari personali. Bisogna aspettare e vedere se dal punto di vista penale Genovese è colpevole oppure no, ma non c'è dubbio che lui dal punto di vista della qualità della gestione dei rapporti politici e istituzionali fa parte di questa vecchia idea della politica come prevalente centro di affari. Questo è un punto. Dal punto di vista poi invece nel male, e io non capisco la scelta di Forza Italia, la quale realizza sul piano dei numeri un successo rilevante, su questo non c'è dubbio, almeno nel messinese, però si tratta di muoversi in una direzione che è esattamente opposta rispetto a quella che un partito di destra ha sempre detto di volere perseguire, cioè un'apertura al mercato, una riduzione dell'intervento della pubblica amministrazione, un dimagrimento dell'amministrazione pubblica. Mi pare che imbarcando un esponente come Genovese si muove in una direzione diversa. Ti ringrazio, grazie a Giovanni Pepi, condirettore del Giornale di Sicilia, per essere stato con noi e per averci aiutato ad analizzare questo momento particolare della politica siciliana con questo passaggio e cambio di casacca. E torniamo dal nostro Andrea Viali a Roma per un punto sulla sicurezza del Giubileo, sugli schieramenti che sono in campo in questo momento, gli oltre 2000 uomini, ma anche su un paio di notizie di cronaca che riguardano le truffe, come si diceva poco fa Andrea, insomma, la sicurezza è sì l'allerta terrorismo, ma è anche altro, evidentemente. È così, è esattamente così, Simone. 2000, lo hai detto, gli uomini delle forze dell'ordine che erano impegnati qui stamattina e che con i pellegrini stanno iniziando anche ad andare via, e diciamo che la loro è stata una presenza discreta ma comunque molto ben visibile stamattina. Diciamo, hanno vigilato questi uomini sulla sicurezza dell'avvio, su questa cerimonia di avvio dell'anno santo, intorno, lo abbiamo detto, è stata una cerimonia blindata, anche perché oltre ai 50.000 pellegrini che vi hanno assistito c'erano anche delle personalità istituzionali come il Presidente della Repubblica Mattarella e il Presidente del Consiglio Renzi a controllare dall'alto, c'erano anche degli elicotteri della polizia e poi 200 telecamere qui nelle vie attorno al Vaticano che sono state anche chiuse al traffico. Insomma, sulla città poi è ancora attiva una no-fly zone da stamattina e lo sarà fino a stasera. Insomma, sono state veramente molte le misure di sicurezza messe in campo, anche se, ripetiamo, tutto al momento si è svolto in maniera regolare come da programma. Insomma, ci sono stati, lo accennavi anche tu, soltanto un paio di interventi oggi da parte delle forze dell'ordine. In una fermata della metropolitana i carabinieri hanno arrestato 3 uomini che, fingendosi poliziotti, stavano cercando in realtà di rapinare alcuni pellegrini che avevano fermato, e poi invece anche la Guardia di Finanza è intervenuta e ha sequestrato 2 magazzini di proprietà di aziende gestite da cittadini cinesi. Questi magazzini erano pieni di rosari, di immagini sacre, diciamo di gadget religiosi che erano pronti ad invadere le vie della capitale in occasione proprio del Giubileo, Simone. Grazie, grazie ad Andrea Viali e ovviamente buon lavoro di Giubileo. Come si diceva, torneremo a parlare anche più avanti nel corso della trasmissione, torneremo a collegarci con la nostra Katia Caramelli, sentiremo anche un altro paio di voci, non solamente quella del Papa, che ci descrivono il senso di questo Giubileo. E come vi dicevo prima, sentiremo anche la voce di Joachim Navarro Valls, lo ricorderete, il portavoce di Papa Wojtyla, che racconterà un ricordo del Giubileo del 2000, quello che l'ha colpito di più. Intanto ci fermiamo e andiamo a sentire cosa succede sui mercati, perché sarà pur festa, ma le borse sono aperte. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Si apre il Giubileo della Misericordia a Roma, che porti a tutti bontà e tenerezza, dice il Papa. A Roma intense misure di sicurezza, lo avete sentito, con oltre 2000 uomini schierati. Una nuova strage di profughi, tutti bambini, in sé hanno perso la vita in un naufragio al largo della Turchia, tra loro un neonato. Altri 5 cittadini russi sarebbero stati decapitati dai terroristi dell'ISIS. L'ultima di Donald Trump, fermare l'ingresso negli Stati Uniti di chiunque sia di religione musulmana. La borsa. Effetto giorno. E torniamo alle cronache del Giubileo e torniamo dalla nostra Katia Caramelli. Katia, eccoci di nuovo. Sì, diventiamo tutti artefici di misericordia. Se possiamo, asciughiamo qualche lacrima, doniamo un po' di gioia. Così il Papa, durante la recita dell'Angelus in Piazza San Pietro, che ha concluso di fatto la celebrazione per l'apertura dell'anno santo. Un evento, quello di oggi, dicevamo, che cade con la fine dei lavori del Concilio Vaticano II, che il Papa ovviamente ha ricordato durante l'omelia. Sentiamo. In primo luogo, però, il Concilio è stato un incontro, un vero incontro tra la Chiesa e gli uomini del nostro tempo. Un incontro segnato dalla forza dello Spirito che spingeva la sua Chiesa ad uscire dalle secche che per molti anni l'avevano rinchiusa in se stessa, per riprendere con entusiasmo il cammino missionario. La Chiesa dunque, in sostanza, ha ribadito il Papa, non si deve chiudere in se stessa, deve aprirsi al mondo e all'uomo e chinarsi sulle ferite. E in un momento in cui il nome di Dio, lo sappiamo, è strumentalizzato, è motivo anche di conflitto e di odio, appare quanto mai attuale il messaggio lanciato da questo Giubileo, cioè quello della misericordia, come ci spiega il direttore della Civiltà Cattolica, padre Antonio Spadaro, stretto collaboratore del Papa. Sentiamo. Nel momento in cui a volte viene presentato un Dio violento, un Dio che giustifica le guerre, a volte anche un Dio semplicemente lontano, un Dio assente, il Papa invita non solo la Chiesa, ma tutti, possiamo dire, a riflettere sul vero volto di Dio. E per il Papa il volto di Dio è misericordia. Giubileo straordinario questo, che arriva quindi con 10 anni di anticipo rispetto a quello ordinario. Il precedente, lo ricordiamo, è stato il grande Giubileo del 2000, allora c'era Papa Giovanni Paolo II, il suo storico portavoce Joachim Navarro Valls così ricorda uno dei momenti più toccanti, la giornata della gioventù. Guardi, è inevitabile naturalmente fare un riferimento alla giornata della gioventù. Quella sera lì a Tor Vergata a Roma era una cosa impressionante, no? Quel Papa già anziano, con segni esterni di una malattia che era in progressione, però così in sintonia con quei 2 milioni e mezzo di ragazzi di tutto il mondo, era un'immagine, io penso per me certamente, che ero lì, ma per tutte le persone. E grazie alla nostra Katia Caramelli, che ritroveremo nel nostro speciale dedicato al Giubileo in onda dalle 17 alle 18.30. Andiamo adesso a Sedriano, nel Milanese. Qui lo Stato non paga da anni le bollette di un appartamento confiscato ad un boss, ma la conseguenza, come anticipa oggi la stampa, è che anche gli altri condomini restano al freddo. E questo è solo l'ultimo caso di un'incapacità di gestire i beni confiscati. Anche così, grandi intuizioni rischiano di diventare drammatici boomerang, anche lasciando al freddo i condomini di un palazzo dove lo Stato è moroso da anni. Sedriano, Porte di Milano, comune già sciolto per mafia, è in un edificio degli anni 60 che da 8 anni le famiglie devono pagare le bollette anche dello Stato se non vogliono restare senza riscaldamento. Qui abitava un boss a cui è stato confiscato un appartamento, divenuto quindi di proprietà pubblica. Da quel momento però l'antico proprietario non ha più versato la sua quota, ma neanche il nuovo, col risultato che ogni tanto, nelle pieghe di una complessa battaglia burocratica, il gas viene staccato. Ci sentiamo impotenti, ammette l'amministratore Alessandro Pogliaghi. Sono anni che protestano, purtroppo l'amarezza di vedere che la situazione è andata in questo modo. E questo è solo l'ultimo caso di una difficoltà a gestire l'ormai ingente patrimonio tolto ai clan, un impasse peggiorato col passaggio dall'Agenzia dei Beni Confiscati al Demanio e che rischia di trasformare l'intenzione di ridare alla società le ricchezze delle mafie in un drammatico boomerang, insieme ai fallimenti delle aziende e al deterioramento di quei beni che avrebbero bisogno di proprietari attenti e non morosi, come in questo caso. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. E visto che parliamo di mafia e criminalità organizzata, parliamo di spettacolo, ma occupandoci di questo stesso tema. In scena al Teatro Vittoria di Roma fino al 10 dicembre c'è Per questo mi chiamo Giovanni, uno spettacolo firmato da Gianni Clementi sulla storia di Giovanni Falcone. In scena Sebastiano Messina con il figlio in un viaggio a Palermo, nei luoghi simbolo della lotta alla mafia. Elisabetta Fiorito ha intervistato Sebastiano Messina. Per questo mi chiamo Giovanni è uno spettacolo sulla vita di Giovanni Falcone, o meglio attraverso la vita di Giovanni Falcone un padre spiega ad un figlio che cos'è la mafia, che cos'è la legalità e come si combatte, anzi come si deve combattere, e per combatterla non bisogna aspettare che si è grandi, ma bisogna farlo sin da piccoli. Il papà regala a Giovanni per il suo compleanno una gita molto particolare, una gita a Palermo dove tappa dopo tappa prendono vita i momenti salienti della vita di Giovanni Falcone, fino ad arrivare al tragico epilogo. E Giovanni, questa gita, che è anche una lezione di storia contemporanea, forse gli sarà servita più che un'interrogazione e uno studio su Garibaldi. Il traffico, il nostro Mario Platero, ci ritroviamo alla fine per i saluti.